Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Le persone giuste al momento giusto. Siamo noi. Settembre 1981. La persona è mio zio. Il luogo è il lago di Como. È il momento, una storica e famosa regata velica, cui partecipiamo su Stress, un catamarano biposto di colore rosso rubino. Mi chiamo Davide, ho 46 anni, vivo a Portichetto, in provincia di Como. Sono sposato, ho una famiglia con tre figli. Sono un impiegato tecnico elettronico. Girovago per il mondo e sogno la vela. Essere la persona giusta al posto giusto nel momento giusto, o al contempo o all'opposto, essere la persona sbagliata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Buongiorno a tutti, sono le 16:08 in diretta da Milano, questa è Radio 24, il programma è Voi Siete Qui. Al microfono sono io, sono Matteo Caccia. Ogni giorno raccontiamo una storia e oggi facciamo la stessa cosa. La storia di Davide ce la spiegherà meglio, come di solito fanno le storie sanno spiegare meglio di qualsiasi altra cosa un concetto o un messaggio, e la sua racconta perfettamente come e che cosa significhi essere le persone giuste nel posto giusto al momento giusto. Con voi però cerchiamo di fare un altro gioco, cerchiamo di fare il gioco opposto. È più facile o più difficile essere invece che la persona giusta, la persona sbagliata nel posto sbagliato al momento sbagliato? 349-238-6666 se avete un cellulare, oppure Voi Siete Qui R24 su Twitter, o Voi Siete Qui Radio 24 su Facebook se avete uno smartphone sotto mano, come già hanno fatto ad esempio Maurizio, che scrive: ero la persona sbagliata nel posto sbagliato molti anni fa in una banca di un paesino per cambiare soldi. Sono stato scambiato per un rapinatore, sono anche stato trattenuto in caserma per accertamenti. 349-238-6666. Francesca invece più laconicamente dice: la persona sbagliata al posto sbagliato, a casa di mio cognato qualche sera fa. E poi ancora: a casa del mio migliore amico mentre litiga con sua madre per il compito di matematica andato male. 349-238-6666. Emanuele: a un corso di yoga che davvero volevo provare, ma che era coordinato da una signora tedesca, e in segreteria, dopo 10 minuti dall'inizio della lezione, chiudeva a chiave l'ingresso. La prima volta mi ha riaperto, la seconda mi ha detto: lei mi mette in difficoltà. Solo per 3 minuti di ritardo. 349-238-6666. Immaginatevi adesso invece di essere su un lago del nord Italia, uno di quei laghi in cui in estate c'è un sacco di sole e anche un sacco di vento. Questa è la storia che ci ha mandato Davide, che ha accompagnato il tutto da una mail che dice così: mi chiamo Davide, ho 46 anni, eccetera eccetera. Nelle scorse settimane le immagini delle imbarcazioni impegnate nelle regate di Coppa America, vi ricordo che diciamo i racconti ci arrivano un giorno e noi li leggiamo con un po' di ritardo, quindi si parla di qualche mese fa, insomma la Coppa America dello scorso anno, insomma quelle immagini mi hanno ricordato e fatto rivivere una bella sensazione. A 14 anni mi sono trovato con la persona giusta nel posto giusto al momento giusto, in cui si realizzò un sogno sicuramente inatteso, bellissimo ed incredibile. Quindi siamo su un lago del nord Italia, c'è un bel sole, ma al momento vento, ancora niente. Siamo le persone giuste al momento giusto. Settembre 1981. La persona è mio zio, il luogo è il lago di Como. E il momento, una storica e famosa regata velica, cui partecipiamo su Stress, un catamarano biposto di colore rosso rubino. Sulla barca sono con mio zio, esperto skipper e timoniere. Io lì sopra sono l'apprendista, faccio il prodiere, faccio il mozzo e ho la possibilità di gareggiare da meno di 6 mesi. Questa non era la mia prima regata, ma avevo iniziato da 6 mesi a poter regatare. Andavo in barca da piccolo, ma le regate si potevano fare solo al compimento del 14° anno. La regata si disputa nella zona centrale del lago, quello che ha la famosa forma di una Y rovesciata. La base nautica dove staziona la barca è invece nel punto più a nord del lago. Ci attende una bella crociera mattutina per raggiungere in tempo il campo di gara. Purtroppo non c'è vento, solo una leggera brezza. Dopo mezz'ora di lenta navigazione verso sud, un gommone del circolo velico organizzatore si avvicina e chiede una cima da usare per rimorchiarci. Con la nostra barca si inizia a comporre un bel trenino galleggiante con i velisti che hanno come destinazione la regata, la Coppa Bellano. Lo zio mi affida senza esitazioni la barra del timone dicendo: questo lo puoi fare anche tu. Grazie, penso io. mi fai tenere dritta la barca vincolata ad altre due davanti e dietro. Che potere. In queste condizioni navighiamo per una buona mezz'ora fino alla sospirata zona della partenza, programmata come da tradizione a mezzogiorno in punto. Sul posto il timone ritorna nelle mani dello zio skipper. Non è giornata di vento, ma la regata sta da fare, perché è sempre stata disputata. 5, 4, 3, 2, 1, colpo di cannone. Si parte, anche se in verità le circa 100 barche allineate sono quasi tutte ferme sul posto. Il percorso si sviluppa su due giri di un triangolo delimitato da enormi boe galleggianti. E senza un po' di vento sembra impossibile poter raggiungere anche la prima di queste. Si sentono parlottare i componenti degli equipaggi che simpaticamente si prendono in giro. Il mio passatempo preferito è leggere i nomi delle barche e provare a motivarne la scelta. Alcuni sono bizzarri e il nostro catamarano non è da meno. Stress, di nome e di fatto, oggi è lentissimo. Una alla volta le barche vicine a noi manovrano e puntano verso la sponda est, alla disperata ricerca di brezza. Lo zio tiene cocciutamente fede alla decisione presa in avvio di raggiungere prima possibile il centro del lago. La sua esperienza è indiscutibile, ma zio, chiedo, ma che si fa? Siamo rimasti da soli. Lui resta in silenzio. 10 minuti più tardi, vicino alla sponda ovest, prende forma uno strano fenomeno, una sorta di tempesta, disposta su una striscia larga poche centinaia di metri, con fortissimo vento da sud. La superficie del lago è divisa in due, calma piatta su un versante e un disastro meteorologico con onde di un metro sull'altro. Il vento ci investe e inizia la nostra fuga solitaria. Rispetto alle imbarcazioni ferme sull'altro lato, lo zio fa volare letteralmente via il nostro catamarano ed accumuliamo un larghissimo vantaggio. Giriamo la prima boa e solo dopo parecchi minuti incrociamo i primi equipaggi che hanno beneficiato del vento, ormai aumentato dappertutto. Verso la fine del percorso il vento cessa quasi completamente, ma tagliamo il traguardo per primi, è una grande gioia. Lo zio si accende un sigaro e mi ricorda che la classifica della Coppa Bellano è stilata in tempo compensato, cioè si moltiplica il tempo impiegato a completare il percorso per un coefficiente stabilito prima di partire, che ovviamente penalizza le imbarcazioni più veloci, e la nostra è un tipo di barca considerata molto veloce, purtroppo. Quando abbiamo attraversato il traguardo ho provato una sensazione bellissima di aver realizzato qualcosa di impensabile e di inaspettato. Alla fine dei calcoli conosciamo il verdetto. Quell'anno, il 1981, la nostra barca, Stress, vince anche in tempo compensato e si aggiudica il trofeo Coppa Bellano. La storica Coppa è stata per un anno nella bacheca di famiglia e rimessa in palio l'anno seguente, dopo averci inciso il nome Stress sul piedistallo. La foto scattata allora, vista oggi, mi emoziona ancora. Ci siamo io e lo zio Mario con un sorriso improbabile. La coppa è lasciata praticamente fuori inquadratura. Non ci credo ancora, ma mi è successo. Le persone giuste, al momento giusto, nel posto giusto. There are times when I don't know where I stand. Whoa, sometimes you make me feel like I'm a boy and not a man. Whoa, sometimes there are times when you don't give me a smile. Whoa, sometimes I lie awake at night and worry for a while. Whoa, whoa, it's okay, 'cause I know you shine even on a rainy day. And I can find your halo, guides me to wherever you fall. If you need a hand to hold, I'll come running, because you and I won't part till we die. You should know we see eye to eye, heart to heart. There are times when I cry 'cause you shed no tear. Whoa, sometimes your mind's so far away, but your body is right here. Whoa, sometimes there are times when I just walked out your door. Whoa, sometimes I thought I'd never get to see you anymore. Whoa, whoa, it's okay, 'cause I know you shine even on a rainy day. And I can find your halo, guides me to wherever you fall. così facile definire quale sia il posto giusto in cui trovarsi quando scatta il momento giusto in modo da essere le persone giuste, con tutto quello che ne consegue. E la storia di Davide è emblematica per il semplice fatto che loro hanno un obiettivo ben preciso, che è vincere la regata. E per farlo hanno bisogno di andarci più veloci degli altri. Per andare più veloci degli altri, in barca a vela è meglio trovarsi in un punto in cui ci sia più vento di quello in cui si trovano tutti gli altri. E il gioco è fatto. Anche se è molto meno semplice di come ve l'ho raccontata. Credo che per trovarsi al momento giusto, nel posto giusto, sia necessaria molta fortuna oppure molta determinazione. Oppure, meglio, tutte e due le cose. Qualche tempo fa avevo letto una teoria a riguardo che sosteneva che il luogo o il momento giusto non esistano di per sé, ma che siamo noi a crearceli seguendo strenuamente i nostri obiettivi, fino a che si arriva ad un punto in cui luogo, persone e accadimento sembrano giusti, ma sono semplicemente stati creati. Questa teoria, non ricordo dove l'avessi letta, prendeva ad esempio un avvenimento sportivo, però vale per qualsiasi attività umana. Raccontava della prima vittoria di Roger Federer a Wimbledon nel 2003, analizzando passo passo, partita per partita, set per set, anche se in tutto il torneo Federer perse un solo set contro Fish, analizzandolo fino alla fine, fino all'ultima partita, alla finale contro l'australiano Philip Pussis. In ogni palla, secondo l'autore di quella teoria, c'era una sorta di tensione al raggiungimento dell'obiettivo che hanno permesso un secondo dopo l'ultimo punto, un secondo dopo il match point, hanno permesso a Roger Federer di essere l'uomo giusto al momento giusto, nel posto giusto. Solo che questa teoria non mi ha spiegato ancora perché tutti gli altri, in tutte le milioni, miliardi di volte in cui c'è stato uno scontro, in cui c'è stata una competizione o una corsa ad un obiettivo, ecco perché tutti quegli altri, noi compresi, non abbiamo mai vinto e non siamo diventati la persona giusta al momento giusto. Una volta, qualche anno fa, feci un provino per una parte in un film. Doveva essere un piccolo ruolo in cui avrei dovuto recitare la parte dell'amico del protagonista. Il provino andò molto bene, al punto che il regista mi fece richiamare. Feci un altro provino. Ma questa volta eravamo in due, io e un'attrice che doveva essere la fidanzata del protagonista. E andò bene anche quello. Mi fecero richiamare dopo una settimana dicendomi che ero stato molto fortunato. Il protagonista era stato chiamato per un altro film e quindi io ero perfetto per fare la sua parte. E loro mi dissero che se fossi arrivato uno o due giorni dopo, quel ruolo l'avrebbero dato a un altro attore che avevano provinato giusto giusto il giorno prima. Io ovviamente ero molto felice, mi sentivo molto fortunato e cominciammo le prove. Poi iniziarono le vacanze di Natale e da lì ci saremmo visti a metà gennaio. Il film si intitolava Tutti via. Parlava di un gruppo di ragazzi che partiva dall'Italia e ci tornava dopo aver fatto fortuna all'estero in posti diversi del mondo. Era il 2001. Ve lo ricordate il film? Lo avete visto? Io no, perché non è stato mai fatto. Ma forse non era il momento giusto, o forse il posto giusto, quel giorno, era altrove. Aged upon the way, as he held his head straight, making plans upon the favor and their foe. Rest as he stood upon his nest, taking chance upon a chest that had beat him dry. Come on, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ovviamente in un luogo di mare con delle barche alle sue spalle. Davide, nella foto che ogni giorno raccontiamo e che ogni giorno trovate sul nostro sito alla pagina di Voi Siete Qui, sempre Radio 24, ha in mano dei gadget, immagino. Alle sue spalle ci sono delle barche a vela, dei catamarani, tra l'altro serissimi, proprio ultimissima generazione. Non capisco bene dove sia, però a giudicare dalle costruzioni là in fondo potrebbe essere forse è l'arsenale di Venezia. Pronto, Davide? Ciao. Ciao, come stai? Molto bene, ciao Matteo. Sei all'Arsenale di Venezia, giusto? Nella foto. Sì, esatto, è l'appuntamento che c'è stato l'anno scorso a maggio delle World Series. Sono andato con mio figlio, una cosa privata, e mi ha scattato lui l'unica foto che è stata fatta. Perché tu continui a interessarti, a frequentare, andare in barcavela, giusto Davide? Andare magari, ecco, questo okay. È il sogno che sto coltivando, perché... diciamo che da quando abbiamo fatto quell'esperienza, poi con la famiglia qualche problemino, diciamo, economico che non ha permesso di continuare a fare le regate, piano piano è scemata la questione. Sì, perché, diciamo... perché comunque è vero che insomma non è lo sport per ricchi che si pensava essere fino a 10 anni fa, però comunque servono dei soldi per, sì, servono dei soldi, sì, per avere una barca, diciamo che... per gestirla, per andare a fare le regate in giro, non è proprio... Sì, sì. Cioè è più facile prendere un pallone e darci tre calci e giocare, esatto. No? Invece che armare una barca, quanto è un gioco di vele? Ma sono questi 1500 euro se va bene, e quindi sì. Immagino sia complicata. Però lo zio come sta? È ancora tra di noi? Ma spero. Guarda, sì, no, lo zio è diventato, ha applicato una delle sue passioni grandissime, che è quella di restaurare motociclette d'epoca, e è un bravissimo restauratore di motociclette, ha un garage fornito di tutti i dettagli per fabbricarne anche di curiose. E dove si trova? Dici dove si trova, come si chiama, se lo troviamo su internet. No, beh, lui è proprio okay. Diciamo molto molto diciamo riservato, sì, fa per le cose proprio per sé, però ah, ecco, quindi cioè non le fa, sì, per dei clienti, proprio per passione, sì, le colleziona, poi le rivende a una cerchia ristretta di conoscenti, amici, comunque non è una professione in sé. Ma è in pensione lo zio adesso? Sì, sì, okay, assolutamente, okay. È dedicato 365 giorni all'anno con le chiavi inglesi in mano a fare il suo lavoro. E invece il catamarano, sì, che fine ha fatto? Il catamarano, poi da stress ne sono succeduti altri due, uno si chiama Lumacone, perché ti faccio intendere come camminava, sì, e poi un altro che dico non mi ricordo il nome, lo abbiamo fatto solo un paio di regate, poi sono stati venduti. Il catamarano, descrivi tu Davide, per chi proprio non avesse idea di che, sì, tipo di barca è, cos'è la vela, come è fatto un catamarano? Sì, sì, certo, catamarano semplicemente detto, potete immaginarvi i famosi pattini che si usano al mare, che hanno i due scafi, sono quelli invece dotati di vela, e quindi hanno due scafi molto sottili, è una vela piuttosto importante perché ha forma tipo alare, diciamo, nella, okay, maggioranza dei casi. Entriamo proprio nel tecnico adesso. Grande. Esatto, sono i due scafi sono uniti con due, tecnicamente si dicono traverse, ma tengono uniti i due scafi, c'è con un telino, una rete, una rete dove l'acqua praticamente continua a inondare l'equipaggio durante la navigazione, non c'è problema. Vabbè, insomma, vela e timone. Davide, mi dici cosa fai nella vita tu invece? Allora, io sono un tecnico informatico, mi occupo di un settore un po' particolare che è l'identificazione automatica industriale, tutto quello che riguarda codici a barre, tutte queste sistemi per... Cioè i beep del supermercato? Bravissimo, cioè, ma tu sei magazzini. Sei il tecnico, come si suol dire da queste parti, sei il tecnico che viene chiamato quando il beep beep non funziona più. Esatto. Un sacco, diciamo, di beghe. Grezzamente sì, dopodiché vediamo più la parte dei magazzini dove c'è la gente che ha in mano dei terminali tipo Palmari con tutto questo sistema, okay, di decodifica che aiuta a rifornire gli scaffali in modo che le persone che vanno a fare la spesa trovino sempre tutti i prodotti allineati per bene. Bravo Davide, ti ringrazio molto per la storia, per la chiacchierata, quindi insomma, okay, al momento proprio non navighi per nulla, però hai in progetto. Guarda, di... Esatto, bravissimo, ne hai rubato le parole di bocca. Il progetto è quello di portare la mia famiglia a rivivere le mie sensazioni prima o poi. In bocca al lupo, grazie Davide. Grazie Matteo, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie, ciao. Io ringrazio anche chi al 349-238-6666 mi dice che questa teoria, la teoria quella per cui non si crea una cosa, non si finisce per caso ma si crea qualcosa, la puoi leggere Lo spazio delle varianti, un libro molto interessante. Ringrazio quello che invece tutti i giorni mi manda messaggi della serie Messaggi fuori contesto, mi manda dei messaggi in cui storpia il mio cognome. Oggi è arrivato solo Matteo Braccia, ma di solito è molto più fantasioso. Ti ringrazio, non mollare mai, ti prego, non mollare mai, perché prima o poi qualcuno lo leggo, come vedi, perché cazzo, ogni giorno lo scrivi, evidentemente hai proprio voglia, cioè che ti diverti proprio. Abbiamo cominciato da poco e hanno cominciato ad arrivare anche dei racconti, una raccolta, che hanno un tema, una cosa che non facciamo, invece ogni tanto la facciamo, abitualmente no, invece ogni tanto sì. Il tema dei racconti che vorremmo cominciare a raccogliere, continuate a mandare racconti di qualsiasi tipo, non vogliamo solo quelli, ma se avete in particolar modo racconti che parlino dell'alimentazione, del mondo del cibo, se volete raccontarci una storia legata a una ricetta, una storia legata a come siete diventati vegetariani, se siete vegetariani, una storia legata a un piatto che avete conosciuto in un luogo particolare, voi siete qui, @radio24.it è sempre quella la mail. L'importante però, mi raccomando, è che sia una storia, e quindi come al solito abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Comincia una regata, succede quella cosa e finiamo, la vinciamo o la perdiamo. Grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina. Grazie soprattutto a Davide, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Emiliano di Torino, la storia di domani è la mia e parla di Ayurveda. Questa è la mia storia e io sono qui.